certo, oggi. Troppi bicchier ne ho trafannati. Vado fuori all'aperto. Ma prima voglio che mi vedite come quel giorno e partì soldato. E poi, mamma, sentite, se io non tornassi, se io non tornassi, voi dovrete fare. Un bacio, come